I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e ciao a tutti. Il femminismo non può abbandonare mai la lotta di liberazione, che è possibilità di comunicare, di dare voce a tutte le lotte del presente come del passato e alle loro ragioni. È portare fuori ogni lotta dall'ambito riduttivamente femminile, è vanificare così tutti i tentativi di ghettizzazione. È smascheramento dei codici linguistici del potere che costituiscono la rete essenziale del controllo sociale. È la capacità di investire tutti gli aspetti della vita, dal lavoro all'eros, dai sogni ai linguaggi quotidiani, dalla politica all'arte. È rivoluzione totale. Atti, memoria collettiva, memoria femminista 2012. E proprio per questa apertura e con questa apertura che vogliamo salutare un gruppo musicale femminile che canta canzoni popolari del sud d'Italia e che è qui con noi stasera e che si chiama Femmine Femmine. Quindi ciao, ciao a tutte, si sente un coro, proprio perché il femminismo non è soltanto lotta politica, o meglio, la lotta politica passa anche attraverso la musica, no? Quindi il vostro gruppo è come è nato, come ce lo raccontate in un po' di parole tutte vostre? Ok, inizio. Il gruppo nasce da un gruppo precedente e la nostra storia si è andata poi trasformando via via nel tempo, naturalmente in un gruppo di sole donne che ci ha unito nella passione della musica, unite nell'amicizia, unite in questo percorso che ci vede sempre più dentro ad una realtà che di condivisione e soprattutto di scambio con le persone, soprattutto il movimento femminile, femminista che ci segue calorosamente su Roma. E anche noi, in effetti. Esatto. Ed è per questo che siete qui, fra l'altro. Esatto, per questa comunque grande amicizia che comunque, certo, è nata. Proprio giocando nei nostri, esatto, concerti, condividendo soprattutto l'amore per la danza, per la musica che accompagna la danza e che diventa strumento appunto di condivisione che ci unisce. Bene, allora, bene, bene, sì, dimmi. Beh, poi direi che una nota fondamentale del gruppo che ha avvicinato il gruppo al movimento femminista e alla lotta femminista è che all'interno del gruppo c'è la menestrella femminista. Sì. È fondamentale. Certo. Sì, sono io la menestrella femminista, sono Nicoletta. E, all'interno del gruppo, sì, da quando siamo rimaste praticamente solo donne, perché via via i maschi andavano via dalla formazione in modo naturale e devo dire, da parte nostra anche ben accetto. Cioè man mano vi siete rese conto, una selezione naturale. Quindi ecco, ritrovandoci in sole donne è diciamo venuta fuori un po' quest'anima femminista, quindi abbiamo iniziato anche a suonare le canzoni femministe della menestrella femminista durante i concerti. Certo. E siccome vedevamo che c'era una risposta bellissima del pubblico, perché forse inconsciamente anche il pubblico comunque ci vedeva come donne molto orgogliose di essere donne, insomma, noi siamo sul palco, femmine, cioè è una cosa abbastanza. Ma chiara. È un nome che dice tutto, sì, comunque, no? E quindi è una rivendicazione. Abbiamo visto che ecco anche questa nota molto esplicita di appartenenza all'universo femminile, alla lotta femminista. e vedevamo che era apprezzata e che appunto ci ha aperto anche nuove strade, nuove conoscenze. Siamo molto felici. In realtà il nome Fimmene Fimmene viene da una canzone popolare che si chiama Fimmene Fimmene e parla delle donne che lavorano nei campi, il tabacco, che raccolgono l'uva per la vendemmia, eccetera, eccetera. È un canto di lavoro, però è un canto che è rivolto prettamente alle donne. E nella tradizione popolare ci sono tantissimi canti che sono creati dalle donne, che vengono cantati dalle donne, che vengono rivolti alle donne, quindi canti di lavoro, pensiamo alle mondine, ma anche le ninna nanne, le canzoni d'amore, che non è vero che sono scritte solo dagli uomini. No, è vero. Sono un concetto universale anche. Uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna. E quindi abbiamo voluto prendere spunto da questa canzone, che comunque ci piaceva e che prima o poi metteremo al repertorio, per caratterizzarci, ecco, con questo nome, Fimmene Fimmene. Proprio Fimmene Fimmene. E dai, infatti si sente, devo dire la verità, che è un nome che comunica questa sensazione, ecco. Allora, faccio una premessa: loro sono qui e ci suoneranno delle cose in diretta, dal vivo. E quindi la prima scelta vostra qual è? La Tarantella del Gargano. Ah, siamo tutte con voi. Parliamo insomma di canzoni d'amore, che non è vero che sono scritte solo dagli uomini. Noi immaginiamo questa canzone d'amore cantata da una donna, magari cantata da un'altra donna, chi lo sa. Immaginiamocela così. La immaginiamo come vogliamo. La Tarantella del Gargano. Dirò se te a fare, dirò se te a fare, dirò se te a fare un bello giardini. A dormire intorno di lei, a innamorare. C'è la cavanna brava a puntani. Yeah. quando vedevi una bella dicevi bella Madonna che l'ha fatta innamorare la camera pure tu parlavi di bella tonda ci per innamorare una vicina l'ha fatta innamorare la camera pure tu parlavi la pittura mamma del sabato ti c'ha pure a te fantastiche, non ho parole, veramente coinvolgente, e tu che hai cantato, no? Diciamo come domanda da profana e da pubblico poi in effetti, i vostri ruoli sono sempre gli stessi, voglio dire chi suona il violino suona il violino, chi suona la chitarra suona la chitarra, chi suona il flauto, sbaglio il nome è giusto, no? Perché di strumenti a fiato c'è, cioè io... sarebbe flauto irlandese, però flauto irlandese? No, no, no, perché tante volte, cioè ci sono talmente tante varianti che io appunto da profana non ho paura di sbagliare. Allora, questi strumenti sono di ognuna oppure avete anche c'è anche una circolarità e suonate no, altre gli strumenti cose? Rimangono comunque fissi ovviamente, fissi. Però c'è comunque anche l'interazione nel canto, quindi controcanti, quindi anche Nicoletta, la voce, Silvia, quindi c'è comunque una partecipazione. Beh, anche ovviamente. Alessandra al tamburello. Al tamburo, quindi sì. Certo, quando il tamburello. Balliamo. Quando possiamo balliamo, a volte inseriamo un organetto. Ma gli strumenti caratteristici della musica popolare del sud Italia, quella che dite voi, quali sono? Beh, sono gli strumenti che si usavano nelle campagne tanti anni fa. Si parte dal tamburo. Il tamburo è lo strumento base e che addirittura veniva fatto con i setacci della farina. Ah. E poi sono stati introdotti vari organetti, violini, chitarre, mandolini, mandole, e cose di questo genere. Allora, sì, ciaramella. Sì. Allora, con cosa volete continuare? Allora, bene, poi passerei a una pizzica a questo punto. Diteci cos'è una pizzica intanto. No, perché diamo per scontate tantissime cose che non... scontato non è, perché esatto. Sicuramente tutta la nuova il nuovo folk popolare ha riportato alla luce questa grazie anche agli eventi che si fanno comunque ad agosto nel Salento hanno sicuramente riportato alla luce un'area della tradizione che però ha avvicinato ma anche perso un pochino, no? Che cos'è la reale tradizione? Certo. La pizzica, diciamo, è un canto, comunque un canto e soprattutto una musica, una tarantella tipicamente pugliese, fa parte, è una delle tante tarantelle, perché la tarantella è il genere che comunque è italiano, del centro-sud Italia, e la pizzica, diciamo, è un'espressione in particolare della tarantella della pugliese, del Salento. Ah, perfetto. Quindi la pizzica fa parte del genere tarantella. Bene, ecco, allora. Quindi già è una specifica, perché molto spesso si confonde la pizzica con la tarantella. In realtà fa parte del genere. La Bene. Tarantella è proprio il genere popolare italiano. Perfetto. Sì, sotto. Da distinguere infatti con la tarantella del Gargano che abbiamo appena suonato, esatto. Che è invece della zona alta, dell'alta Puglia. Ah, ho capito. Del Gargano, Foggiana. Perfetto. Allora andiamo con la pizzica. Che pizzica facciamo? Che pizzica facciamo? Dai, una delle più conosciute, direi, appunto, la pizzica di San Vito. Thank you. spontaneo. Si balla. Allora, sentite, stai ballando a casa, confessatelo. Esatto. Adesso però io volevo fare una cosa, volevo presentarvi a una perché mi sembra importante, ho sentito un no accorato. Sì, perché mi sembra importante che ognuna di voi abbia la possibilità anche di dire quello che sente, quello che è, come è arrivata qua, e anche il rapporto con lo strumento, non lo so, tutto quello che volete dire. Io posso cominciare con la prima che mi capita sotto mano, Alessandra Di Magno. Sembra di essere a scuola. Esatto. Le serali piuttosto. Hai fatto una domanda da $1,000,000 perché ogni tanto me lo dico, se mi avessero... Intanto tu sei la voce che ha cantato. Sì. Se mi avessero detto anni fa che sarei finita in un gruppo di musica popolare femminile barra femminista e a parlare alla radio, e c'è una colpevole in tutto ciò che forse sarà in ordine alfabetico l'ultima. lo scoprirete. E le mie esperienze comunque musicali vengono da tutt'altro genere, quindi sono passata da gruppi che facevano blues o pseudo cover band dei Pink Floyd al gospel, tutto un altro. Poi arrivando a Roma c'è stato questa folgore. Veramente. Che ha un po' preso vari aspetti, quindi sia il canto, per cui mi sono avvicinata anche allo studio, a riappropriarsi anche di quella che è la nostra tradizione, che è fondamentale, che certo. Recuperarla. E a questo si è unita anche la danza, si è unito lo studio dello strumento, certo. Del tamburo, e quindi diciamo che ha preso comunque tutti i vari aspetti che accompagnano proprio il concetto più ampio del popolare, che ci appartiene da sempre, che è una cosa ancestrale. Allora, siccome poi le femmine ci hanno portato anche una serie di canzoni che appartengono a un concerto che voi avete fatto, vero? Quindi non so se volete mandarne una adesso, prima che parliamo con la seconda, venite qua a sceglierla. Io direi di mandare Cuti Ludissi, visto che è stata appena presentata Alessandra Di Magno, che oltre ad essere un bellissimo pezzo di musica siciliana potrebbe appunto dar valore a questa splendida voce ancora di più di quanto l'abbiamo sentita fino adesso. E niente, una splendida canzone di Rosa Balistreri. Ale, scusa se ti faccio parlare ancora, ma vieni a raccontare. Mi sa che non c'è. Ok. Allora, in quelle che hai scelto qua. Non c'è. Ah, ma addirittura l'unica che non c'è. E dunque sì, va bene, allora facciamo, fatela, va bene, andate. meglio va bene. Allora, un'altra canzone d'amore, amore siciliano, vero? Siete pronte? Dico a casa se siete pronte per sentire questa canzone. Thank you. Dillo di sì, dai alla sari, meglio la morte e non questo dolore. Ai ai ai ai, moru moru moru moru, gelo di lumigari, l'amore mio sei tu. Ai ai ai ai, moru moru moru moru, gelo di lumigari, l'amore mio sei tu. Guttillo di sia ti anni guccia il cuore mi scricchia picca picca picca picca e ai ai ai ai moru moru moru moru giallo di lumigari l'amore mio sei tu e ai ai ai ai moru moru moru moru giallo di lumigari l'amore mio sei tu. Lo primo amore, lo vici guttia, e tu schifiosa ti stai ascoltando a mia. Paci, paci, muo, nigaretta mia, ciao dell'alma mia, l'amore mio sei tu. E paci, paci, muo, nigaretta mia, ciao dell'alma mia, l'amore mio sei tu. Bellissima, veramente bella, veramente veramente bella. Irene, Irene Guerrera, ciao. Sono contenta che hai detto il cognome bene, grazie. Beh, non è difficile, te lo pronunciano male di solito. Sì, beh, siamo in buona compagnia, anche il mio lo dicono sempre sbagliato. No, niente, io suono il flauto, questo è irlandese, però si presta anche a questo genere qua. E anche lo scacciapensieri che ho non è quello siciliano, ma è quello vietnamita, però si presta anche questo, diciamo, mi arrangio un attimo. Ah, lo scacciapensieri vietnamita? Sì. Non pensavo, cioè non sapevo dell'esistenza. No, veramente. Sì, ma guarda, sta in tutto il mondo praticamente, i scacciapensieri stanno in tutto il mondo, in Cina, c'è diverse dimensioni, diversi materiali, dappertutto stanno. Cioè, quindi è un tipo di strumento che il genere umano ama. Irene, ma raccontaci come ci hai conosciute, dai. No, è bella sta cosa, infatti, perché ci siamo conosciute, io ho conosciuto Alessia Nicoletta al corteo dell'8 marzo, che era il 2013. Dai, veramente? Sì, praticamente io, cioè a me la musica mi è sempre piaciuta, insomma, da quando ho 18 anni, bene o male, che sto, cioè mio nonno da piccola mi cantava canzoni abruzzesi e tutto, però quando ho 18 anni, insomma, mi ascoltavo. Ultimamente la suonavo pure, la suonicchiavo un po' di più, e allora a un certo punto durante il corteo sento sta musica popolare, cioè mi sono emozionata, no? Io sono appena arrivato, sentivo la musica popolare, ho detto "Dio, mi sono emozionata", veramente ho poggiato la bici tutto veloce, così sono andata a seguire loro due, che stavano loro due con l'organetto e il tamburello, io mi sono unita col flauto, dice ma sì, insomma, alla fine per tutto il corteo sono rimasta dai, grandissimo. Sì, e poi E niente, poi alla fine sei rimasta qui. Sono rimasta qua. Sì. Grande, grandissimo. Questa cosa. Bene. Allora, scegliete voi come continuare e cosa. Allora, vado con Silvia Pierattini. Eccomi. Io sono i tamburelli. E sono diciamo 5 anni che sono appassionata di musica popolare. Ho iniziato a studiare appunto circa 4 anni fa con il grande maestro Davide Conte. E niente, sono in questo gruppo più o meno dai suoi albori, quando era una formazione un po' più allargata, un po' più estesa. E niente. Quando non era di sole femmine. Esatto, sì. E è una cosa da cui non si esce più, è una droga. Ci credo. Sì. Ci credo proprio. Nicoletta, dai, Nicoletta Salvi. Eccomi. Io dico, no, guarda, al di là di questo, come si dice, appello nominale, però secondo me invece è molto importante che chi fa delle cose si sappia chi è, no? E quindi lo spirito è anche quello di rendere il più possibile riconoscibile il lavoro che uno fa e anche la passione che uno ha, no? Quindi Nicoletta Salvi. Sì. Nicoletta Salvi, menestrella femminista. Ecco, menestrella femminista. Sì, sei sì, tu. Sì. E io vabbè, suono la musica popolare da tanto tempo con il mio violino, adesso anche da qualche anno con l'organetto, che insomma mi appassiona sempre di più. E ho varie formazioni con cui suono la musica popolare, però insomma questa delle femmine per me è la più divertente, la più coinvolgente, la più leggera, è proprio bello. E devo dire che io, ecco, suonando anche con gruppi maschili, cioè comunque che hanno anche degli soggettività maschile all'interno, io la sento tantissimo questa differenza. Cioè quando suoniamo solo noi femmine, quando facciamo le prove, quando andiamo non so, fuori Roma a suonare, quindi tutte in macchina, o andiamo a farci i nostri giri, i nostri concerti, c'è proprio tutta un'altra energia, tutta un'altra un altro sapore, non so come, certo, dire. Perché è proprio vero che le donne, quando stanno insieme senza uomini, creano un campo che ha una vibrazione diversa. Io con questo non voglio dire che gli uomini, non so, sono negativi o che li voglio eliminare, assolutamente. Ci sono delle situazioni in cui sono necessari. Però io riesco a percepire questa differenza di vibrazione, cioè anche nei miei gruppi dove ci sono gli uomini io sto bene, però è un'altra vibrazione, è diverso, e quindi sì, anche la musica che noi facciamo ha un altro sapore, ha un'altra vibrazione. Io lo sento tantissimo. E devo dire che purtroppo questa è veramente una cosa che è un gran peccato. Mentre esistono centinaia di migliaia e di milioni di gruppi di soli uomini, esistono pochissimi gruppi di sole donne. Sì, infatti. Nella musica popolare ci sono, anche qui a Roma, però cioè, c'è un disequilibrio altissimo, che ovviamente, certo, è specchio della nostra società. Certo, cioè le cose come fatte tutte dalle le donne cose sono comunque sempre di meno, no? Certo. In questi ambiti. Ed è un gran peccato, appunto, perché invece questa vibrazione femminile, secondo me, è linfa. Certo. Per il nostro mondo. Io ho visto che tu hai anche un blog. Sì. sono andata a vederlo anch'io. Sì, Nicoletta Salvi è il mio blog. Vabbè, poi noi abbiamo anche ovviamente la nostra pagina Facebook Femmine Femmine. Beh, ditecelo. Che è collegata con la pagina della Menestrella Femminista. Insomma, siamo molto collegate. Sì, se volete andare sulla nostra pagina Facebook, siamo molto felici. Anche perché così potrete seguire i nostri prossimi appuntamenti, concerti. Diteceli se c'è qualcosa in ballo. Allora, adesso come menestrella la prossima data sarà Barcellona. L'ho visto, per quello te l'ho detto apposta, perché però, sono andata a vedere. Andremo il 5 marzo a Barcellona a suonare per la festa delle donne, che però loro festeggiano un po' pochi giorni prima, perché il 5 è sabato. Sì, sì, sì. Quindi fanno una festa qui. L'8 marzo invece sicuramente noi femmine saremo qui a Roma a suonare, ad animare, sì, parecchie situazioni. Poi suoneremo, vabbè, ci sono degli appuntamenti privati, insomma, che sì, certo, vabbè, no però sì, marzo sicuramente state connesse, che vi arriva di tutto. Sì, suoneremo da qualche parte. Sì, benissimo, sì. Allora, perfetto. Alessia Sibiglia. Buonasera a tutte, io sarei voluta venire volontaria già 10 minuti fa, così mi toglievo toglievo il dente l'interrogazione. Invece ho sospirato ogni nome che hai chiamato. Eccomi qua, mi presento, sono Alessia Sibilla e suono con le femmine da 3 anni circa. Ero stata invitata alle prime prove per appunto sostituire il chitarrista che era gentilmente uscito dal vecchio gruppo, e quando sono arrivata effettivamente era appena rimasto l'ultimo musicista uomo, insomma, tra l'altro un ragazzo, un compagno veramente splendido, però non so cosa è successo, ma confermo che nel giro di 3-4 prove, non so se è stata colpa mia o colpa dell'energia di tutte, l'energia. Anche l'ultimo uomo è scappato e quindi nel giro di poche settimane, proprio da quando sono arrivata, ho infestato questo gruppo portando almeno la trasformazione del nome, perché insomma, ho provocato questa bellissima infestazione di femmine. Bene. E quindi contagiamoci tutte, diventiamo, certo, sempre di più, sempre più numerose, siamo sempre molto fiere di portare la nostra musica in contesti di diverso genere, natura, livello, insomma, sia sociale che politico, si può dire. Certo. Quello che abbiamo detto all'inizio, sì, che la musica, l'eros, l'arte, infatti, sono politiche, in effetti sono quotidiano, ma sono anche fare politica, no? infatti la cosa ci entusiasma ogni volta che si tratti di suonare in una piazza piuttosto che su un palco predisposto, piuttosto che su un prato o in mezzo alla gente così che sfila in un corteo, o tante altre situazioni. Per noi veramente questa è un progetto che ci nutre quotidianamente, che ci arricchisce veramente tutte quante, sia tra noi, però soprattutto ci piace proprio portare fuori il messaggio che non sono solo le donne, scusate, non sono solo gli uomini sempre i desiderati protagonisti dei palcoscenici di ogni scena, insomma, sociale. Certo. È bello ogni tanto che anche le donne escano fuori, prendano il palco, prendano la scena. È importante, è anche un gruppo di sole donne, è fondamentale, fondamentale. Noi siamo molto attenti, cerchiamo sempre di privilegiare questo tipo di aspetto, e non abbiamo mai chiamato nelle nostre iniziative specifiche maschi a suonare, perché è diverso, non perché appunto ce l'abbiamo in qualche maniera, però si crea un'atmosfera, quella che diceva Nicoletta prima, diversa. Io penso che sia anche una sensazione di sotto sotto di libertà, e quindi di mancanza della necessità di un rapporto, della necessità di un tra virgolette anche uno sguardo diverso, no? Per cui anche noi lo riteniamo molto importante. Eh sì, sì, sono tante le priorità e le cose da portare avanti, però ecco, noi ci teniamo molto e non so, sono contenta che siate riuscita ad invitare molti gruppi femminili, perché in realtà almeno nel popolare ce n'è solo un altro. No, invitate, cioè non nel popolare, il popolare è soltanto nel popolare sì, ci siamo noi e c'è anche un altro gruppo, un altro trio femminile nella musica popolare, però veramente vediamo che sono molto pochi. Difficile, sì, è difficile comunque trovare un gruppo interamente femminile, femminile. Altrimenti anche se la leader è una donna, però è sempre. Ma lo sapete che questa difficoltà ce l'abbiamo anche con le canzoni, cioè quando noi mandiamo le tracce musicali sono anche delle belle canzoni cantate da donne, però magari il gruppo è misto, non so, la cantante è la voce femminile eccetera eccetera, però il gruppo è misto, quindi abbiamo difficoltà a trovare solo donne che cantino da sole, insomma, ecco, sì. Bene, e comunque niente, finisco per dire, vabbè, a livello personale sono comunque nella musica popolare dal 2004 e insomma sono proprio contenta di essere arrivata a costruire questo progetto, ad essere insieme a queste splendide donne. È comunque molto difficile per allacciarmi al problema dei palchi, delle scene che sono quasi sempre prese prioritariamente dagli uomini. Diciamo ci piace essere contattate, trovare i contesti di ogni tipo dove suonare, però insomma contattateci anche, perché certo, magari diventa un bello scambio. Quindi la pagina Facebook sicuramente, quella di Femmine Femmine, che insomma la proponiamo sempre anche per divertirvi a guardare qualche video, qualche foto, visto che insomma abbiamo due o tre soggette del nostro gruppo Femmine Femmine che sono particolarmente gnocche, come diciamo ogni tanto presentiamo, e la gnocca Silvia Verattini e vabbè insomma vendiamo certo. Bene quello che in una società dove tutte merce, no? Esattamente, una non si può sottrarre, giustamente. No, era solo così un invito per stimolarvi ad andare sulla nostra pagina, contattarci e insomma trovate tutti i nostri contatti. E bene, adesso che facciamo, ragazze? Un'ultima canzone? Certo, sì, come no? Perché a me sembra che abbiamo fatto le tarantelle, abbiamo fatto la pizzica, possiamo fare una bella tamborriata? Magari. No, insomma, non possiamo chiudere senza fare una tamborriata. Perfetto. Le tamborriate, dobbiamo spiegare cosa sono? Magari, non è male. La tamborriata viene dalla zona della Campania ed è il ballo tipico, insomma, di quelle parti. Si balla sempre in cerchio, a coppia. E è un ballo, a differenza della pizzica, molto più come dire, più radicato nella terra, ecco, e anche molto più scenico. Si suonano queste castagnette tutto il tempo, queste coppie che girano costantemente e si toccano anche addirittura a volte questi corpi che osano unirsi, poi si staccano, perché ovviamente non è che si può fare il tango. Cosa. E la musica è veramente coinvolgente, c'è questo ritmo di tamburo. Silvia, facci sentire il ritmo della tamborriata com'è. fantastico, bellissimo, eh? Trascinante. E quindi beccatevi questa bella tamborriata dei Sanfedisti. Fantastiche. Noi vi ringraziamo tantissimo di questa partecipazione, perché è stata una cosa veramente importante, uno scambio importante, si è piaciuta veramente tanto. Grazie a voi. grazie. E noi adesso chiudiamo la trasmissione, mancano 3 minuti e diamo un po' di comunicazioni, nel senso che questa trasmissione la caricheremo registrata come al solito sul nostro blog, quindi chi vorrà risentirla potrà andare su coordinamenta.noblogs.org. Se volete scriverci e comunicarci qualcosa, potete andare su, cioè scrivere a coordinamenta@autistiche.org. E diciamo che la parentesi che doveva essere letta durante questa trasmissione e che si chiamava mistificazioni neoliberiste, nonostante ci siano ancora due minuti, non la leggo, la trovate direttamente sul blog nostro e sarà caricata sul sito della radio, perché non voglio rovinare questa atmosfera, siccome è una parentesi no, siccome è una parentesi molto politica e anche abbastanza pesante, invece questa trasmissione è stata così bella. Trovate il tutto sul blog e sul sito della radio. Ah, poi vi ricordiamo che questa radio ha bisogno sempre di finanziamenti, non vive d'aria, ha bisogno tantissimo del vostro aiuto, e quindi potete andare su www.ondarossa.info e trovare tutti i sistemi per poter contribuire alla vita della radio, a finanziare la radio. Bene, ci vediamo mercoledì prossimo, ringraziamo le Fimmene e mandiamo la sigla. Ciao! Ciao.